Cecilia, oggi sul presto ti va di dar fuoco alla scuola. A cavallo del mio mostro d'armadio scatteremo Polaroid Pop a tutti gli studenti morti nel falò. Oh, oh, oh. Siamo brilli di freddo tedesco e il nostro amore è un serpente grasso. E brindiamo ai vostri Ray-Ban Club Master, al brutto tempo e alla birra di Castagno. E le felpe, le ferrovie e l'Inghilterra tastiera. E i tasti come grappoli di scale a chiocciola. Su si va dai graffiti del mercato come una lea. Repubblica del pomeriggio bianco, delle panchine che sono stanza. Quando fumi ruggisci il mare e la Camargue, Brina e Brancamenta. Salpiamo su barca a vela con un giradisco ed una moca.